waiting for a guy to come and take me by the hand. Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations barely end, so leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling. Eccoci qua, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza anche per questa sera. Disorder anche per questa sera, 6 dicembre del 2021. Contenitore vario, tendenzialmente gothic, neofolk con tanta elettronica. Sono queste, diciamo, le componenti principali del programma, senza poi trascurare altre, diciamo, tendenze. Programma che andrà avanti fino alle ore 23 circa. Saluto Maya e Nicola Locci in Sardegna. Rosa La Vita, Alberto Clipper di MDMA, Marco Milanesio di Disordine, Dario Arrighi di Progetto No Name, Isai Tual. E poi Valerio Michetti e Alessandra Bersiani della Grazia Obliqua. Giulia qui a Roma, Alessandra qui a Roma. Laura Spirit Crusher, Marco qui a Roma ancora. E poi Enrico Ponzone di Sokushi Butsu Project insieme a Massimo Mascheroni anche di Oders. A Berlino c'è Mariano Virdia. E noi si va a iniziare con le scurribande un po' a metà tra industrial e metal appartenenti ai Ministry attraverso l'ultimo lavoro Moral Hygiene. Un buon ritorno per la band di Al Jorgensen. Eravamo rimasti a Americant con 3K e quindi si alludeva allora al razzismo degli Stati Uniti, ma non solo, e alla presidenza Trump che c'era allora. In ogni caso hanno sempre l'urgenza di dire la loro in qualsivoglia, diciamo, entità governativa che va a dominare quel paese, e quindi in questo contesto esce pure Moral Hygiene. E da questo lavoro ci ascolteremo We Shall Resist, noi resisteremo, e TV Song 6. There were others who spoke for truth. So they decided to abolish truth. Reveal. tell you. And you'll never be back. Suck my dick and choke on it. You destroyer. National emergency. I'm a very stable virus. Man of the toupee. You get off this nation. You get off this nation. How did you do that? Don't get the test. Bullshit. China virus. Here we go again. Injection. Disgusting. Oh, thank you, Jesus. The enemy of the people. Hallelujah. How concerned are you? E terminiamo così: moral hygiene, ultima fatica per i ministri di Al Jorgensen. Un buon ritorno. Da quale abbiamo estratto questa serie, due tracce abbastanza diverse. We Shall Resist, quasi endemica ma lenta e incalzante. E la più nevrotica, TV Songs 6, una sorta di metal contenuto in una struttura elettronica. E questa sera mi vengono anche a dire che i ministri suoneranno qui a Roma, cosa che non sapevo, e ciò accadrà ad aprile. Quindi terremo i sensi ben allertati. Saluto Cecilia Miradoli. La ricordiamo insieme ad Alberto Clipper in questa loro nuova collaborazione che ha dato alla luce Creeping, un brano che ci ascolteremo mercoledì prossimo, 8 dicembre ovviamente, al pari di Gianluca Becuzzi che saluto e del quale ci ascolteremo l'ultimo interessantissimo lavoro dal nome Mana. Arriviamo qui in Italia per andarci ad ascoltare un trio che porta il nome di Bikini Death Race, dove insieme all'attitudine punk, anche qui si parla di elettronica, di synth pop e di electro clash, ma soprattutto molta attitudine punk. A tratti mi hanno ricordato anche i Divo nelle loro migliori pagine, e loro invece sono giunti al secondo album dal nome Refrigerator, attraverso l'etichetta americana Negative Gain Productions. Album uscito a settembre che si apre con questi tre brevi estratti: Refrigerator, per l'appunto, Frontlines e Termini Tram. Tornano ordunque Bikini Death Race con questo Refrigerator, ultimo lavoro, secondo per la precisione. Già li ricordavamo positivamente 3 anni fa con Party Animals, e una buona conferma queste evoluzioni elettroniche mutuate con il rock, con il punk, un'attitudine soprattutto punk che caratterizza in termini di freschezza l'intero lavoro. Ginger Cat Bedrocks, Panda Guy e Lemon Alpha, questi sono gli pseudonimi per questo trio romano. Buonasera a Flavio Derbecante di Noise Cluster e DB Pit. Synth pop dunque in varie salse e concezioni. E per citarne un'altra, andiamo in Germania da The Rorschach Garden di Philipp Munk, famoso soprattutto per la sua collaborazione con Sunnyscape in ambito più rhythmic noise insieme a Tim Kniep. Ultimamente invece è in splendida solitudine in The Rorschach Garden e ha finalmente tirato fuori questo album che era rimasto un po' nel dimenticatoio per problemi legali, lo ha autoprodotto e lo ha fatto uscire ad aprile. Si chiama Grand Culture. E questa sera ci ascoltiamo Cyber Christ e Enjoy Decay.